Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi vi sveleremo finalmente il mistero sulle voci dei giovani emigrati che per ben 3 settimane hanno accompagnato l'inizio della nostra trasmissione. Vi racconteremo il progetto che ha raccolto e filmato le loro storie. Nel notiziario vi faremo invece ascoltare le risposte di 2 big delle imprese e del sindacato sul fenomeno della fuga dei talenti, ma soprattutto oggi vi porteremo fino a New York per parlarvi della storia frizzante e ricca di sorprese di una giovane professionista italiana. Gli stipendi mi sembrava almeno nel 2008-2009 che fossero molto più bassi in Italia che negli Stati Uniti. Mi è sembrato che ci fossero ancora meno posti di lavoro e addirittura che le spese comunque di vita nelle grandi città fossero paradossalmente più alte che a New York. Benedetta Piantella, 29 anni, è una designer al lavoro negli Stati Uniti. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Puntata speciale per le nostre news con le interviste esclusive che Giovani Talenti ha realizzato pochi giorni fa al convegno Guardare al futuro con merito, organizzato dai giovani imprenditori di un'industria a Bologna. Ai rappresentanti di imprese e sindacato abbiamo posto la stessa domanda. Vi preoccupa la fuga dei talenti di giovani professionisti qualificati? E quali soluzioni proponete per arrestarla, rendendo l'Italia un polo di attrazione dei talenti? Susanna Camusso, segretario confederale della CGIL. È evidente che la fuga dei cervelli preoccupa perché vuol dire che noi rinunciamo a risorse e prospettive e preoccupa perché vuol dire che i giovani del nostro paese pensano che qui non c'è per loro un futuro e quindi in realtà pensano che il paese non ha futuro se non c'è futuro per loro. Io credo che bisogna fare 2 cose, ripristinare un criterio di concorsi veri nella pubblica amministrazione, nelle alte professionalità, perché questo rappresenta una chance relativa ai propri studi, e dall'altro ricostruire un'idea del rapporto tra lavoro certo e preparazione scolastica. Alberto Meomartini, presidente di Assolombarda. È un problema e dall'altro un'opportunità, cioè non è tanto il problema di giovani che vanno all'estero, perché devo dire, se poi la gran parte di questi giovani occupano posti di rilievo nel mondo dell'economia e della comunità scientifica e quindi sono un ponte, preoccupa il fatto che è quasi unidirezionale il senso di marcia, quindi pochi giovani di altri paesi vengono in Italia. È chiaro che bisogna offrire maggiori opportunità di progetto, che non è solo di prima retribuzione. Molti di questi giovani vanno all'estero perché si sentono parte di un progetto all'estero. D'altra parte è anche creare meccanismi di premialità del merito per cui uno abbia la speranza che impegnandosi riesce a ottenere dei risultati. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo 3 offerte, tutte in scadenza dopodomani. Affrettatevi! Un economista specializzato in risk management alla BCE di Francoforte in Germania, info su ecb.int. Un avvocato specializzato in legislazione ambientale alla EFTA Surveillance Authority a Bruxelles, info su jobs.eftasurve.int. E infine uno scienziato senior specializzato in tossicologia per la European Chemicals Agency di Helsinki, Finlandia, info su eca.europa.eu. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta, dopo un bel po' di mesi, a New York. Nome: Benedetta. Cognome: Piantella. Età: 29, quasi 30. Città di origine: Parma. Studi: Belle Arti e Telecomunicazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 98 prima, 2000 poi. Per andare dove? Stati Uniti. Perché? Per studio. Quale lavoro svolge attualmente? Imprenditrice. Dove? A New York. Tornerai? Mi piacerebbe, ma non saprei come fare. A song that will take us back to the city where everything started for me. Start spreading the news. L'eterno omaggio di Frank Sinatra, La grande mela, per introdurre la storia di Benedetta Piantella, 29enne designer a lavoro a New York. Ho provato a tornare in Italia quando nel 2009 la crisi ha colpito anche qui, rendendomi difficile trovare un lavoro. Ma allora mi è stato detto che ero troppo qualificata o che non mi avrebbero pagata abbastanza per rientrare. Così ha scritto Benedetta in una email a giovanitalenti@radio24.it. Si ripropone per l'ennesima volta uno dei temi portanti della nostra trasmissione. Quanto è difficile tornare in Italia dopo anni di formazione e lavoro qualificato all'estero?

fanno affascinare dai nomi stranieri e magari trascurano i ragazzi che sono disponibili sotto casa. Però queste condizioni che i giovani designer denunciano esistono in Italia? Sì, ma credo che appunto sia una questione che riguardi proprio tutta la formazione, non solo quella del campo del design, perché tutti i giovani fanno molta fatica a trovare dei posti di lavoro indipendentemente dal loro curriculum, che molte volte è degno di assolute si potrebbe fare qualcosa di più forse? Sì, credo che dipenda dallo Stato italiano e dal voler riconoscere un impegno nei confronti dei giovani che non è solo a parole ma è anche nei fatti, avendo delle strategie precise per l'inserimento nel lavoro di queste persone che altrimenti inevitabilmente andranno all'estero e poi con molta fatica penso potranno poi rientrare esatto. Nel nostro paese. È facile aprire una propria impresa di design in Italia come ha fatto Benedetta a New York? Questo penso sia più difficile qua, però lo vedo come un passaggio inevitabile. Tutti quelli che hanno lavorato in questo settore hanno fatto molta fatica ad affermarsi e hanno dovuto, fino credo all'età di 35-40 anni, subire un po' la povertà degli stipendi, insomma una situazione abbastanza pesante. Sul design interattivo, ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, lo vede come un settore potenzialmente in evoluzione in Italia? Sì, sicuramente. Noi per esempio all'interno dell'ADI Index, nelle tematiche di riferimento, abbiamo ormai da qualche anno aperto al design dei servizi, al design dei materiali, cioè quest'idea che il design sia solo una sedia o una lampada è qualcosa che è stato da parecchio superato. Grazie a Luisa Bocchietto, presidente dell'ADI, e domanda di rito per Benedetta Piantella: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita un espatrio? Molta, anzi moltissima ricerca. E una volta individuato il paese di interesse, raccomando appunto di studiare approfonditamente la lingua, perché è l'unico modo per inserirsi veramente in un'altra dimensione. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi finalmente svegliamo il mistero sulle voci che nelle ultime 3 settimane hanno aperto le nostre puntate. Si trattava di giovani espatriati intervistati da Alice Bescapè, l'ideatrice del progetto Interviste Performative Andata Senza Ritorno. Andata senza ritorno nasce da un mancato mio trasferimento all'estero e dall'aver constatato che molti miei coetanei dopo l'università sono partiti per cercare fortuna e vita altrove. Così questa perdita anche di amicizie strette mi ha portato a interrogarmi sulle ragioni, la capacità di farlo rispetto magari anche a lasciare gli affetti e quanto si può pensare esista dentro un trasferimento, e ho deciso di indagarlo con mezzi artistici perché quello è un po' il mio filone di lavoro e di ricerca e anche di senso rispetto alla vita, per cui ho ideato una modalità di intervista un po' più creativa rispetto a quella tradizionale video, che si avvale diciamo della possibilità di lasciare traccia della propria esperienza in termini più esistenziali su video, audio e carta. Quanti espatriati giovani avete intervistato e dove? All'incirca trentina, in 3 grandi città europee per il momento, che sono Parigi, Berlino e Barcellona. Il progetto quindi è ancora in corso? Diciamo che ha avuto un suo primo esito, ma a me piacerebbe allargare il raggio ad andare anche oltreoceano e anche magari in parti dell'Europa meridionali o molto più al nord, perché i temi ritornano ma ci sono delle piccole differenze in relazione al luogo di espatrio, chiaramente. Alice, al di là del cliché della fuga dei cervelli, quando un giovane italiano dice che scappa dall'Italia, cosa sottintende? La sorpresa è stata molto grande. Molti sono partiti all'inizio un po' per caso, tanti per amore. Quindi diciamo che oltre, vabbè, a magari motivazioni di lavoro, ci sono anche delle motivazioni affettive, molto spesso. E questo io l'ho scoperto con sorpresa, devo dire. E tornando al lavoro, invece, perché vanno via e cosa trovano dall'altra parte? In generale trovano un orizzonte sereno, ovvero un futuro possibile più bello, più promettente rispetto all'Italia. È un fenomeno in crescita, secondo te? Direi di sì. Non da ultimo ho visto emigrare nel mese di settembre una famiglia intera di amici di 30 anni con pupo annesso, e continuamente ci sono persone che valutano questa possibilità. E da cosa scappano? Scappano da una situazione italiana, lavorativa ma anche sociale, che percepiscono come immobile e deprimente. Pensano di tornare? Questo